Oggi 15 giugno 2020 abbiamo il piacere di confrontarci in un'intervista breve con la professoressa Paola Giulia Pietrandrea, candidata verde in qualità di sindaca presso il comune di Nogent-sur-Marne nella periferia parigina. Allora dicevo, buongiorno Paola. Oggi è anche la prima giornata in cui si aprono le frontiere europee per 27 stati, esclusa ancora in una situazione di attesa la Spagna, la Finlandia e la Svezia. Volevo chiederti qual è, secondo te Paola, la situazione politica, una tua valutazione sociale, economica, ai tempi di questa seconda fase critica del coronavirus, con le politiche di Macron che sappiamo ieri ha fatto il suo quarto discorso, a nome anche credo del suo partito En Marche, che comunque sembra abbia momenti di crisi e di rischi di scissioni interne. Ripeto, quali le politiche di Macron in questa fase critica e quali inquietudini e mobilitazioni offrono le banlieue in questo clima di lotta al razzismo, ad esempio con il Black Lives Matter o in tema di lavoro? In Italia, in questo momento, abbiamo gli stati generali inaugurati dal nostro presidente Conte e nella bella villa Panfili di Roma, sede istituzionale, su tre temi fondamentali, alla presenza anche di Ursula von Leyen e di altri del presidente nostro del Parlamento europeo. Quali su questi temi fondamentali che sono da una parte la necessità di un Green New Deal, la digitalizzazione di cui parleremo in seguito ancora e la tra virgolette, dico io, parità di genere. Allora, Piera, innanzitutto grazie mille per questo invito. Come si prospettano le cose in Francia dopo il discorso di Macron ieri e in questa nuova fase che si è aperta stamattina? Ma secondo me non c'è nulla di buono all'orizzonte, nonostante Macron ieri ci abbia proposto un discorso nel quale ha molto lodato la sua stessa azione. Ricordando ai francesi i 500 miliardi che sono stati investiti per rispondere all'emergenza Covid, un'iniziativa rara a livello internazionale, non abbiamo avuto elementi chiari per capire come questi 500 miliardi saranno finanziati, né per capire come saranno finanziati tutti quegli investimenti nei settori strategici della transizione ecologica, la localizzazione del digitale, dell'educazione, la salute, la strategia marittima che Macron mette al centro del suo piano di rilancio, di ricostruzione, ha parlato di ricostruzione dell'economia. Sappiamo che Macron si è impegnato a non aumentare le tasse e sappiamo che Macron non vuole approfondire il debito che ritiene già estremamente alto dello Stato francese. Quindi cosa dobbiamo aspettarci? Abbiamo sentito un presidente che ha parlato in maniera molto esplicita di più autonomia e più libertà per settori come gli ospedali, l'università, le collettività locali. Più autonomia e più libertà. Due parole chiave di un progetto neoliberista, che è il progetto neoliberista che Macron d'altra parte porta avanti dall'inizio del suo mandato. A farci temere in una diciamo, un approfondimento di quella politica di liberalizzazione, ci sono due elementi, due riforme importanti che sono state l'una lanciata, l'altra rilanciata immediatamente dopo la fase di primissima emergenza del Covid, cioè la riforma dell'università. La legge di programmazione pluriennale della ricerca che di fatto porta all'eliminazione dello statuto di professore universitario, così come lo conosciamo, e a diciamo, l'incoraggiamento a proseguire su politiche universitarie che il presidente del CNRS ha dichiarato definito darwiniste, no? Nelle quali solo i più forti tra i ricercatori potranno sopravvivere cercando di avere una Francia competitiva a livello internazionale per quanto riguarda l'insegnamento e la ricerca. Quindi, se capiamo bene, anche una riduzione del finanziamento capillare dell'università è un'imposizione di una logica che non è una logica di servizio pubblico per tutti. Per quanto riguarda le autonomie locali, Macron sta frenando le elezioni regionali, insomma, qui forse è un'illazione. Diciamo che il discorso ufficiale è che stia volendo rinforzare le autonomie locali attraverso un ridisegno istituzionale delle relazioni tra le regioni e i dipartimenti. I dipartimenti corrispondono più o meno alle nostre province. L'illazione che molti fanno è che in realtà stia frenando la tenuta delle elezioni regionali previste per il prossimo anno, che potrebbero essere fatali a marzo. Insomma, diciamo business as usual e niente di più. Mi chiedevi delle lotte antirazziste. Sì, la Francia partecipa a queste lotte a Parigi. Sabato c'è stata una bellissima manifestazione, come ce ne sono state in Italia e in tutto il mondo. Ma è una manifestazione che ha conosciuto un tentativo di repressione da parte della polizia a Parigi da ormai diversi mesi. È all'opera il famoso prefetto Lallement, un prefetto conosciuto per la brutalità della sua azione di repressione. Quindi siamo allo scontro e saremo allo scontro con gli insegnanti universitari che promettono battaglie, saremo allo scontro anche con il personale degli ospedali pubblici che domani sono pronti a mobilitarsi. Quindi diciamo il clima è caldo e se di facciata Macron non può non appoggiare la lotta antirazzista che si muove dalle banlieue, ma che pervade un po' tutta la società francese, lo fa però con alcuni distinguo, per esempio dicendo che questa lotta non deve fomentare un grande spauracchio per i francesi, quello del comunitarismo, del ripiegamento su sé delle comunità etniche. E guarda caso, i grandi accusati del comunitarismo delle comunità francesi sono proprio i professori universitari con il loro discorso universalista. Insomma, la situazione, Piera, è calda e purtroppo temo che dopo il Covid la lezione non sia stata appresa, anzi che si continui esattamente e con più esasperazione probabilmente nella stessa scia di scontro sociale fortissimo che il governo non governa, ma che sembra quasi fare di tutto per alimentare. Passiamo a una seconda domanda che vogliamo sempre rivolgere con attenzione alla nostra candidata sindaca verde, Paola Giulia Pietrandrea a Nogent-sur-Marne nel nord di Parigi. Rispetto al discorso, ad esempio, in cui lei ha portato una bellissima riflessione in un webinar, che è il Le cœur de la santé, cioè il cuore della sanità pubblica e della salute, ecco, qual è la situazione in Francia rispetto alle nostre politiche sanitarie che hanno creato così grandi contraddizioni, soprattutto nelle regioni focolaio più contagiate come la Lombardia, il Piemonte, il Veneto e anche in parte l'Emilia Romagna. Qual è la situazione anche rispetto alle politiche delle scuole, della scuola pubblica? Rispetto al privato, sappiamo che Macron ieri ha annunciato che le scuole in Francia si aprono il 22 giugno e si chiuderanno il 2 luglio. In Italia le scuole non si aprono e non si apriranno fino al settembre 2020, si discute ancora se prima o dopo le regionali. E c'è una grossa mobilitazione da parte del corpo insegnante, da parte dei genitori, da parte degli studenti e studentesse di avere una scuola in presenza e non in lontananza contro ogni forma di speculazione delle digitalizzazione fatta dalle multinazionali. Ecco, qual è la situazione a tuo modo di vedere in Francia rispetto a questi due nodi fondamentali, salute pubblica, scuola pubblica. Sanità e scuola. Sanità e scuola chiaramente sono due luoghi di scontro tradizionalmente importanti ovunque, in Francia come in Italia. La sanità francese ha conosciuto un destino non molto diverso da quello della sanità italiana. Riforma dopo riforma negli ultimi decenni si è passati alla distruzione di tutta quella medicina di prossimità che passava per i medici condotti, i dispensari, le infermiere che lavoravano sui territori, e si è passati verso una centralizzazione di tutte le cure mediche negli ospedali, nei quali è entrata comunque anche una logica di relativa liberalizzazione della professione. Insomma, diciamo che in una logica di razionalizzazione, ottimizzazione, privatizzazione, la sanità francese ha conosciuto esattamente lo stesso destino della sanità italiana e il Covid ha mostrato quanto inadeguato questo modello sia nei casi di emergenza. Per quanto riguarda la scuola, allora diciamo subito una cosa, che è vero che ieri si è detto che le scuole potranno riaprire, dovranno tutte riaprire a partire dalla settimana prossima, dal 22 giugno. Diciamo anche che questo è un annuncio tardivo, parziale e ipocrita. Tardivo perché le scuole di fatto in Francia sono quasi chiuse. Gli scrutini, i cosiddetti consigli di classe, sono già stati tenuti in quasi tutte le scuole, quindi arriviamo un po' tardi. Parziale perché non riguarda questa riapertura non riguarda i licei, arriverà solo alle scuole medie. Ipocrita perché di fatto le scuole avevano la possibilità di riaprire già a partire dall'11 maggio e le scuole private, come giustamente hai ipotizzato, no? Leggo tra le righe della tua domanda, tu, le scuole private già dall'11 maggio applicando un protocollo sanitario più leggero di quello richiesto alle scuole pubbliche, di fatto già funzionavano a partire dall'11 maggio. Cosa penso, come vedo io il futuro della scuola in Italia, in Francia e quali sono i rischi che questa generalizzazione della didattica a distanza può comportare? Allora, cominciamo col dire una cosa. I guai della scuola pubblica, italiana e francese, ma francese in particolare, sono la mancanza di spazi, la mancanza di risorse umane. Le classi delle scuole francesi, classi delle elementari, delle medie, sono numerosissime. In una scuola elementare francese, in prima non più, ma dalla seconda, terza elementare in poi, si possono affollare in una classe 32, 33 ragazzini e stessa cosa, se non di più, alle medie e nei licei. Quindi esiste un problema importante di risorse, problema che è completamente illusorio pensare di risolvere generalizzando la didattica a distanza. Questo per due motivi. Innanzitutto perché la didattica a distanza, e qui parlo da insegnante, togliamocelo dalla testa, non sostituirà mai la didattica in presenza. Mi piace fare un paragone, immagina, abbiamo imparato tutti a camminare, no? Immaginiamo se non avessimo avuto alle nostre spalle qualcuno che ci accompagnava passo passo, che ci rimetteva in piedi quando cadevamo, che ci frenava quando eravamo troppo imprudenti, insomma, immaginiamo imparare a camminare affidati a una macchina che ci dice come fare e come non fare. È semplicemente impossibile, prima cosa. Questo però non vuol dire che non possa essere di aiuto, che gli supporti della didattica a distanza non possano essere interessanti, che non si possano fare delle integrazioni. Ma ancora una volta, nella mia esperienza di didattica a distanza, perché sono tutt'altro che una luddista e questi strumenti li uso, io posso assicurarvi che questi strumenti funzionano quando si è di fronte a gruppi piccoli e non quando si è di fronte a un'anonima platea sterminata e indifferenziata. Quindi, benvenuta la didattica a distanza. Non risolve assolutamente il problema delle mancanze di risorse, anzi, serviranno più risorse per formarci alla didattica a distanza. Terza ed ultima domanda alla nostra candidata sindaca verde Paola Giulia Pietrandrea a Nogent-sur-Marne, nella periferia nord, credo, se non sbaglio, di Parigi. Qual è il programma verde, green, new deal che la nostra intervistata Paola Giulia, candidata sindaca, vuole proporre a questa comunità e a questa città di quasi 35.000 abitanti, lei che proviene da un'esperienza transnazionale e di cultura di Green New Deal? Allora, Nogent sì, è nella periferia est, non nella periferia nord di Parigi. Beh, il nostro programma verde è un programma per una transizione ecologica radicale, co-costruita, cioè democratica e cofinanziata. Quali sono no le nostre priorità? Noi dobbiamo innanzitutto ridurre le emissioni di gas a effetto serra. I comuni in Francia, è stato stimato, sono responsabili direttamente o indirettamente per il 60% delle emissioni. Quindi a livello comunale, a livello locale, se ci si accorda e si lavora tutti insieme, si può fare molto per la transizione ecologica. Cosa fare concretamente? Cosa può fare un comune? Cosa vogliamo fare noi? Ridurre le emissioni, creare un piano energetico che permetta di ridurre le emissioni. Un piano energetico cos'è? Un piano energetico è uno studio al quale viene dedicato il lavoro di un consigliere che lo prepari, studio che costa circa 1 euro per anno per abitante al comune e che permette, si è stimato, di risparmiare 3 euro per anno per abitante. Un piano del genere permetterebbe di ridurre in toto, le emissioni del 40% da qui al 2030. Questi piani passano per la rinnovazione termica degli stabilimenti pubblici, degli edifici pubblici e degli edifici privati che sia veramente sovvenzionata, per la creazione di comunità di energia, per per una politica di acquisti pubblici ecologicamente e socialmente responsabili, non capace di riorientare il mercato. Ovviamente anche per la sostituzione dell'energia fossile con energia verde. Noi pensiamo in particolare allo sviluppo dell'energia verde, chiedo scusa, della geotermia che abbiamo sul nostro territorio. Quindi interventi in materia di energia, un piano di trasporti che preveda piste ciclabili, integrazione e rafforzamento dei trasporti pubblici e un sistema di ristrutturazione che favorisca anche lo spostamento a piedi. Una politica di alloggi sociali, di alloggi popolari che sia perseguita non soltanto costruendo nuovi alloggi, ma anche creando le condizioni per accompagnare quel 9% di proprietari di alloggi sulla città che lasciano i loro alloggi vuoti, attraverso un'agenzia capace di dare garanzie a questi proprietari perché optino per l'alloggio sociale. Si tratterà poi di centralizzare, per esempio, la cucina, azioni molto concrete, la cucina che prepara i pasti per le scuole e per gli anziani delle case di riposo della città, usando criteri molto chiari in termini di cibo biologico che viene preparato, locale, eliminando la plastica dalla cucina, eccetera. Tutto questo costa, tutto questo non si fa gratuitamente, prevede degli investimenti per i quali esistono tutta una serie di strumenti piuttosto moderni, che in Francia, un po' nella nostra prospettiva di Green New Deal, sono accessibili anche alle comunità locali. Penso per esempio ai finanziamenti partecipativi, alle obbligazioni verdi locali, a tutti i sistemi di mecenatismo che permettono ai privati, siamo in una città abbastanza facoltosa, ai privati e anche alle imprese del territorio di contribuire alla transizione in maniera sostanziale. Grazie da parte di Piera Stefanini, che è redazione Occhio Vigile, Radio Fucico, Bologna, città in Emilia-Romagna, Italia. È una radio metropolitana, ecco, che comprende un bacino di ascolto di circa 1 milione di abitanti nel territorio bolognese e dintorni. E allora vi saluto e vi ringrazio ancora per questo invito.